loro programma. Inizia così, allegro e frizzante. Non ci sono più le mezze stagioni di Roberta Giordano. Finalmente sabato, direte, finalmente sabato, probabilmente perché molti di voi si riposeranno, ma anche perché, diciamolo, su, ammettetelo, non ci sono più le mezze stagioni, nel senso che effettivamente non ci sono. A Milano c'è un grigiore quasi autunnale, e poi è anche perché c'è il nostro appuntamento tra me e voi e con l'opinionista estemporaneo ogni volta diverso della puntata. Tutto questo per commentare insieme i tanti fatti della settimana, esplosivi, questa settimana ne avrete sicuramente in mente qualcuno. Adesso io, come al solito, ve ne riassumo 5-6 al massimo, però pensate voi su quale tema vorreste ritornare a dire liberamente, finalmente, sfogatevi, insomma, all'800 24 00 24. Beh, insomma, le notizie le saprete anche voi, ma come al solito, quando si arriva al punto magari mancano un po' le idee, le parole, però sulla questione, la crisi si continua, questo è un tormentone che chissà quanto andrà avanti, no? Con vertici e controvertici e poi questo attacco ulteriore dell'agenzia di rating, come si dice, di valutazione dell'affidabilità finanziaria americana, Moody's, che di nuovo ha declassato l'Italia. Questa volta però si sono incavolati tutti, non solo Monti, non solo tutto il Parlamento in modo bipartisan, ma anche l'Unione Europea. Dice, come in questo momento che l'Italia sta facendo degli sforzi, che ci sono, c'è l'asta dei titoli di Stato che tra l'altro è andata bene, che fate? Insomma, e c'è anche un'inchiesta su questa mania un po' di alcune agenzie, in particolare Moody's, di arrivare un po' con un certo tempismo a dare queste notizie funeste. Poi vogliamo dirlo, qual è la notizia della settimana, immagino, ne parleremo tra pochissimo se avete voglia anche voi: il ritorno del cavaliere, o meglio la ridiscesa, ogni tanto scende in campo, ecco, questa sua metafora calcistica ritorna ancora questa volta. Sentiremo i vari, anzi vi racconterò dei vari commenti politici, ma poi mi interessa anche la vostra opinione e dell'opinionista estemporaneo che vi paleserò tra pochissimo. Il numero, vi dicevo, 800 24 00 24. Poi che altro? Sempre sulla crisi, Squinzi, presidente di Confindustria, molto preoccupato, che ha detto il PIL, il prodotto interno lordo, cioè la ricchezza del paese, perderà ancora del 2,4%, quindi molto preoccupato. Pensate che in Spagna addirittura hanno deciso di tagliare le tredicesime, e questo ha un po' infuocato le piazze. La tragedia dell'immigrazione, ancora 54 immigrati che sono morti disidratati su un gommone che stavano arrivando in Italia. L'OCSE che continua a dare allarme disoccupazione in Italia, effettivamente siamo quasi al 37%. E poi vabbè, varie insomma, polemiche sul processo Ruby, perché non si è presentata, è andata a Parigi ma il biglietto sembra che l'abbia comprato dopo che l'hanno ricitata in giudizio, insomma queste, diciamo, cose di ordinaria amministrazione. Samuele Piccolo, vicepresidente del Consiglio Comunale di Roma, che è stato arrestato, quindi un altro colpo, diciamo, alla politica. Il matrimonio in Italia, lo sapete quanto dura secondo l'Istat? 15 anni. Dopodiché qui c'è un aumento esponenziale di separazioni e divorzi anche tra gli ultra sessantenni, ma che devono fare, per carità, la vita inizia anche a 60 anni. Però sarebbe interessante, se qualcuno di voi ha un'esperienza del genere, capire perché a 60 anni, si arriva a 60 anni per poi separarsi. Ci sono delle lettere di Gandhi che sono state comprate dall'India, erano state messe all'asta, ma l'India, il governo indiano, ha deciso di farle proprie pagandole 900.000 euro, perché si parla della bisessualità di Gandhi. Ogni tanto ritorna questa cosa e l'India cerca di nascondere, chissà perché. Il marchio Valentino, un altro marchio, grande marchio italiano, che se ne va agli sceicchi del Qatar. In Siria continuano le stragi orrende e la comunità internazionale sta a guardare. Rai, la tarantola, è finalmente presidente, vedremo un po' come lavorerà. Però adesso vi voglio anche naturalmente raccontare perché questa settimana non ci sono più le mezze stagioni. Non ci saranno più le mezze stagioni, ma neanche le intere. Sono un granché. Sì, voglio usare questa come simbolo del non ci sono più le mezze stagioni. Una notizia che riguarda il ciclismo, direi che c'entra il ciclismo. Cancellara, Fabian Cancellara, avete presente? Campione di ciclismo. Non ha partecipato all'ultima tappa, all'undicesima tappa del Tour de France, che stava correndo. Perché, secondo voi? Si è sbucciato un ginocchio, gli fa male un dente, ha avuto un giramento di testa? No, perché la moglie è vicino al parto. E uno dice, da un uomo non se l'aspetterebbe, da un campione, quelli che fanno i maci, insomma. insomma, gli sportivi. Invece no, ha detto: la decisione di lasciare la corsa è stata più difficile di quanto possa sembrare. Non sono soltanto un atleta, ha detto, ma anche un marito e un padre. Di solito sono le donne che dicono sono moglie e madre, raramente si sente da un uomo. E dice: con un secondo bambino che sta per venire al mondo devo essere vicino a mia moglie. Sì, si è proprio aperto il cuore, mi ha detto: bah, esistono anche uomini di questo tipo. Poi naturalmente invece ci si conferma che continuano a esserci le mezze stagioni, cioè che tutto è lineare, tutto va come sempre. Ancora femminicidi in Italia, come sempre, come tutte le settimane, quindi non ci preoccupiamo, qualcosa cambi, è tutto naturalmente regolare. Ma adesso, signore e signori, ascoltatrici e ascoltatori, l'opinionista estemporanea di oggi. Paola Calvetti. Ah, sono io. Sei proprio tu, Paola, che è venuta a trovarmi qui direttamente. Dice: ti sei portata l'ombrello? In questa grigia a Milano, ma no, non piove. Dice che è tutto piove. Grigio, proprio plumbeo. Ma io vedo dietro gli alberi che si agitano e quando c'è questo vento. Va me... bene, c'è bisogno di un po' d'acqua, quindi c'è ok, se piove. No, sì, ci laviamo un po' anche la mia macchina, sozzissima. Le piante hanno bisogno d'acqua, le nostre piante. Si rischia disidratazione. Paola, però non hai portato l'ombrello, ma l'elmetto? No, niente elmetto. Sai che siamo in un percorso di guerra? No, niente elmetto. Tu sei non tranquilla, mi piacciono, ottimista? No, io non sono tranquilla come nessuno che abbia un po' di buon senso. Ma non mi piacciono più le metafore guerresche. Piacerebbe che si usassero nuove metafore. Senti, è come l'ascesa in campo, ecco. No? Probabilmente, magari sarebbe carino trovare un nuovo lessico, ecco, perché continuare a scendere in campo, insomma, non ci vuole molto, non potrebbe trovare. Non mi piacciono le metafore. Ma non ti piacciono le metafore della discesa in campo o non ti piace proprio quella discesa in campo? Ma quella discesa in campo mi sembra assolutamente così, una cosa... fantastica, tra virgolette, nel senso di ottima. Cioè che appartiene alla fantascienza, senso, tu vuoi dire? Sì, perché io ritengo che una persona di una certa età dovrebbe lasciare, insomma, no? Chiunque a una certa età bisogna fare delle altre scelte, riposarsi. Ma è soltanto l'età? Non lo so, è banale, ma è così, basta. Cioè, a un certo punto bisogna dire basta. Però adesso ti voglio dare, Paola, alcuni, vediamo se li ritrovo qua tra tutti i miei ritagli, commenti, alcuni pareri su questa ridiscesa in campo. E poi vorrei sentire anche ascoltatrici e ascoltatori all'800 24 00 24. Allora, stiamo parlando naturalmente del ritorno di Berlusconi, che l'ha ufficializzato. Prima era stata un'indiscrezione del Corriere, poi insomma è confermato. Alfano dice: sì, sarò al suo fianco, oppure sarebbe meglio che avessi una donna al fianco, chissà, ma sì, insomma, e in che senso? E comunque la Minetti libera il seggio adesso alla regione, no? Potrebbe usare lei, sì, però lui tanto veramente per rimanere nel fantastico sembra potete fare anche in questo senso delle proposte, magari sembra che però lui avesse chiesto in questi giorni alla Minetti di mettersi dal Consiglio regionale, ma non per entrare nel governo, diciamo, per ripulire l'immagine. Sì. Sei d'accordo tu? Per esempio, su questa richiesta... fatto che la Minetti se ne vada, certo. Ma perché dobbiamo pagare lo stipendio alla Minetti? Però, fammi capire. Qualcuno ce l'ha messa. Apre un negozio alla Minetti. Però qualcuno ce l'ha messa. Una volta si aprivano le boutique, no? E adesso si mandano i seggi in Parlamento. Apre un negozio. Insomma, ma anche quelle sono in crisi, le boutique, però. Un negozio di qualsiasi genere, però insomma, che non deve andarsene dalla regione, non so, mi pare tutto così ovvio. Senti, allora, tra i vari commenti, tu scegli quello che più, diciamo, ti senti affine a te. Sì. Ecco, allora, aspetta, prima ti leggo, poi mi dici. Enrico Letta, vice segretario. Allora, prima PD, naturalmente Bersani, citiamo il segretario, eccolo qua in prima pagina sul Corriere Online, anche Repubblica, che dice: torna Berlusconi, notizia agghiacciante, dice, agghiacciante per l'Italia. Poi invece, ieri sul Corriere, il suo vice segretario, suo vice Enrico Letta, ha detto: con lui, con Berlusconi, il governo è a rischio, ma il PDL è meglio di Grillo. Tu memorizza. Sì, questa l'ho lei, l'ho sentita. Aspetta che poi vado anche sugli altri. Monaco invece dell'Italia dei Valori, cosa dice Franco Monaco, del PD, pardon. Dice: la candidatura di Berlusconi fa 4 volte chiarezza, richiama la realtà chi si era illuso che avesse smesso di tenere in ostaggio la democrazia italiana col suo conflitto di interessi, testimonia che egli mira a sopravvivere politicamente ma dando per scontata la sconfitta, questo non so perché, sancisce il suo isolamento in quanto i potenziali alleati lo rifuggono come un handicap, conferma che il PDL è retto da miracolati votati alla mediocrità e al servilismo, come si evince dalla prontezza con la quale hanno archiviato primarie, Delfino e rottamatori e qualsiasi ipotesi di rigenerazione. Comune. Cesa dell'UDC, segretario dell'UDC, dice: per me la candidatura di Berlusconi era scontata. E poi ce ne sono molti altri, insomma, questi sono quelli che più mi hanno fatto pensare. Insomma, no. Io penso che, dimmi intanto quali di questi commenti. Nessuno. Francamente, perché mi sembrano tutte persone, guarda, veramente adesso, a costo di essere proprio del popolo, della strada, insomma, mi sembrano tutti i commenti proprio per riempirsi la bocca, mi sembrano veramente sempre più costantemente staccati dalla realtà i nostri politici, insomma, in generale. Quindi, ma del fatto credo che anche questi, ecco, il Letta secondo me ha detto una cosa gravissima. Adesso io non voglio esprimere pareri sul Movimento 5 Stelle, quello che so lo so perché leggo sui giornali, ma dire, cioè, che il vice segretario del Partito Democratico dica è meglio il PDL che Grillo, mi sembra gravissimo. Cioè, anche lui è meglio che si astenga dall'esprimere questi pareri. Secondo, perché la legge sul conflitto di interesse continuano a non farla? Si può fare anche in assenza del, tra virgolette, del protagonista, dell'imputato, no? Perché continuano a lamentarsi di cose che non fanno quando il potere di farlo è nelle loro mani e non nelle nostre. 800 24 00 24, da Genova prontamente Amalia. Amalia, pronto? Pronto, siamo qui, Amalia, con chi sta parlando? Con il figlio, con il cagnolino. Pronto, Amalia? Amalia, mi senti? E là? Pronto, Amalia? Niente. Si vede che stava preparando. Teniamo, magari cerchiamo di avvisarla che era in onda. Paola Calvetti, tra l'altro, prima di ritornare su questa questione, che mi pare appunto una delle notizie, la notizia principale, insieme alle questioni della crisi, dell'occupazione e di Moody's, Paola Calvetti ha scritto, appena pubblicato, l'ultimo suo libro, che si intitola Olivia, che niente ha a che fare con Braccio di Ferro, naturalmente, il sottotitolo, ovvero La lista dei sogni possibili, appena pubblicato da Mondadori. Stavo parlando di Cancellara all'inizio, no? Di questa sua scelta d'amore, diciamo, di responsabilità, di ritirarsi dal Tour de France per seguire la moglie. Questo è un libro d'amore. Un po' è la storia corde. Di due destini, sì, di due bambini che si vedono da piccoli, ma non si guardano, ma non si vedono, insomma. E io mi sono chiesta, chissà se si rincontrassero da grandi. In realtà tutto il romanzo e le loro vite procedono parallele. E alla fine non posso dire se si incontreranno, ma è la storia di queste due anime che si incrociano costantemente al liceo, in un supermercato, all'università, in un aeroporto, ma non si vedono mai. E in realtà sono destinate, come due particelle che hanno conservato memoria, a rincontrarsi. E il libro dura un giorno, dura dalle 9.29 del mattino alle 21.29, ed è in tema, se vogliamo, anche con Non ci sono più le mezze stagioni. C'è anche la precarietà, è pieno, no? Inverno, ma Olivia esce dal suo ufficio con una scatola tra le mani, modello Lehman Brothers 2008, perché è appena stata licenziata, perché sì, neanche licenziata, le hanno detto che non le rinnovano il contratto, e quindi scorata sotto la neve si rifugia in un bar tabacchi perché decide che andare a casa sarebbe troppo, si sfranticherebbe sul divano, così. Quindi questa giornata è, a un certo punto tira fuori il curriculum, dice vabbè, non mi è rimasto che questo, ed è il curriculum. È come un pretesto narrativo per tornare indietro. Nel frattempo anche Diego quel giorno ha preso delle decisioni, le ha prese lui, molto legate a quel primo incontro, e seguiamo anche la sua vita. Insomma, il poi... fascino di questa storia, Olivia, è che effettivamente, guardate che succedono veramente, sono successe queste, di sfiorarsi, di ritrovarsi varie volte senza vedersi, poi alla fine però di incontrarsi, per quanto mi riguarda. Poi sentiremo, insomma, non parleremo della fine di Olivia, ma questo è l'ultimo libro, se volete capire come va a finire, insomma, quelli sono gli intrecci. Accattatevelo. Accattataville di Paola Calvetti. Tra poco, Amalia, ci sei? Amalia? Eccomi. Amalia, eccomi, scusa, mi chiami e poi scappi, vai in un'altra stanza, no. Fai le cose tue. Aspetta, però adesso abbiamo la viabilità, quindi ti volevo solo avvisare, resta lì dove sei, non ti muovere. Il numero verde è sempre 800 24 00 24. Roberto Scaltritti, c'è la viabilità? Li aggiorniamo? Va bene. Come detto, siamo subito qui, Roberta Giordano con voi, opinionista estemporanea di oggi, la scrittrice e giornalista Paola Calvetti con il suo ultimo libro Olivia. Amalia è lì, vero Amalia? Sempre da Genova? Pronto? Ah, ecco, sta venendo un altro dubbio. Sì. Amalia, senti, sei un po' allora. Indaffarata oggi, mi sembri, eh? E sono piuttosto, diciamo così, Sì. Molto turbata, ecco, da quello che sta accadendo, ma soprattutto quando ho ascoltato che hai deciso di valutare, di ascoltare un po' il l'umore, gli umori degli ascoltatori per quanto riguarda la paventata discesa in campo di Berlusconi. Allora io mi sono paventata, subito... mi sembra ormai ufficializzata, che mi pare proprio di sì, male. Dice che deve salvare il PDL, allora, non ha detto che deve salvare l'Italia questa volta, però il PDL... Ma a questo punto, se dovesse casomai, no? Così essere in qualche modo rappresentativo, rappresentare l'Italia, gli italiani, io... lascio il mio passaporto. Che fai, Amalia? Non voglio più essere italiana, essere rappresentata in un modo o nell'altro da un individuo che ha scaraventato l'Italia nel baratro con tutta la sua corte. Però Amalia, scusa, se lui ridiventasse presidente del Consiglio, vorrebbe dire che lo votano. No, vorrebbe dire che lo votano, ma no, qualcuno lo voterà. Sì, che lo votano, ma io a un certo punto non voglio essere rappresentata, quindi io non voglio essere italiana. Cedo il mio passaporto. E dove vai? Non voglio più essere italiana. Io non voglio essere rappresentata irrisa da tutto il mondo, da Mr. Google. Io non so veramente. Amalia, ti stai così arrabbiando che la voce arriva meno nitida. Tantissimo, sono furibonda. Sì. Perché veramente è sconvolgente e nauseante che un personaggio che ha fatto degli italiani polpette ancora il coraggio di presentarsi. Io sono veramente nauseata. Io amo l'Italia, ma ho anche una dignità e non voglio essere rappresentata in qualunque modo da un soggetto veramente così nauseante per me. Amalia, senti, ma tu quindi nel 2013 chi voteresti? O quale potrebbe essere una prospettiva che non ti fa scappare? Io lascio non l'Italia così per andare in vacanza, non voglio più essere italiana. No, ho capito, ma... Chiedo il mio passaporto, che so, chiedo asilo politico, per dire, perché qui non siamo in guerra del resto, no. Che so, la Papuasia, no. La Mongolia, qualunque paese, ma non più l'Italia. Amalia, però dopo tutto questo... sfogo legittimo, perché se tu la pensi così, ma chi voteresti nel 2013? Chi voteresti? Ma il guaio è che, tra l'altro, non so quanti italiani voteranno o non voteranno. Io, tra l'altro, non voto. Tu non voti? Certo punto... non so, c'è un panorama. Scusa, Amalia, però lasci votare gli altri così se non voti, certo, abbi pazienza. Poi dopo sì, è una responsabilità. Sì, mi rendo conto, però... A un certo punto io non so quanti italiani hanno le idee chiare che cosa potrà accadere da oggi al 2013. E questo è il problema, perché se oggi ti andasse a votare, quanti italiani saprebbero che cosa votare? E poi glielo chiediamo man mano allora ai vari ascoltatori. Io mi domando anche, quando a novembre, no? Sì. È stato quello che è accaduto. Quanti se gli italiani fossero stati chiamati a votare, quanti? Che cosa avrebbero votato? E infatti adesso glielo chiediamo, Amalia, ti ringrazio, mi raccomando, adesso riprenditi un pochino, grazie Amalia da Genova, e sempre da Genova, guarda caso c'è anche Sandro. Sandro? Sì, buongiorno. Buongiorno Sandro. Senta, il mio intervento è un po' più leggero, non è nella politica. Senti Sandro, perdonami un attimo, c'è Paola Calvetti, forse volevi dire qualcosa di Amalia, no? Ti vedevo con gli occhi sbarrati mentre ascoltato con molta attenzione. Sandro, invece tu da Genova che ci racconti? Sì, io volevo dirvi, riguardo un intervento riguardo diciamo alla premessa dei 62 anni che oggi si separano. 60 anni, non proprio 62, 63, sì, diciamo 60 anni. Io ho 62 anni, ok, dei 60 anni. Sì. Volevo dire questo, cioè ho girato un pochettino per il mio lavoro il resto del mondo e il concetto dell'età ce l'abbiamo forse un po' solo in Italia, perché molti mi dicevano che l'età è solamente un numero scritto sulla carta d'identità. Quello che conta è come noi siamo fisicamente, la testa che abbiamo. Ci piace pensarlo così, e infatti è giusto pensarlo così, giustamente. No, ma è realmente così, perché per esempio io onestamente mi sento con la testa che ho, sono già in pensione, però... lavoro pochissimo, però comunque voglio lavorare per tenermi proprio la testa in funzione, cioè email, le lingue, l'inglese. E tutto questo è chiarissimo. Che c'entra col divorzio? Scusami, detto qualcosa. Ma il divorzio e poi la separazione. Il divorzio perché a un certo punto magari uno ha continuato il proprio matrimonio perché c'erano i figli, perché magari c'era la casa da pagare, perché per tutta una serie di cose. Poi a un certo punto dice, va bene, oggi siamo arrivati a un punto per cui la situazione è questa e ognuno va per la sua strada. Quindi questa è la spiegazione, ci si arriva ai 60 anni perché uno cerca di tenere insieme finché può, finché i figli prima, sono proprio grandi. Sì, perché c'è una certa responsabilità. Poi comunque non tutti magari la pensano in questo modo, oppure non tutti hanno una condizione anche fisica di poter affrontare, diciamo, la terza parte, il terzo capitolo in un certo modo, no? Senti, ma secondo te Sandro, sono più le donne arrivate a quell'età che decidono di andarsene o gli uomini? Credo gli uomini. Le donne, dalla mia esperienza che ho adesso, un po' prima, intorno a 45-50, più gli uomini, perché gli uomini a un certo punto appunto arrivano a questa età della pensione, cominciano, io per esempio vado in palestra. Cominciano a perdere la Trebisonda, cominciano a vedere le donnelline in giro. No. Però, per esempio in palestra ho delle persone di 70-75 anni in gambissima. Cioè, fanno i super muscoli, i super uomini. Palestra, alternano nuoto, si fanno 2-3 km di nuoto. E poi vogliono qualcos'altro, Sandro. È chiaro, e anche sul rapporto Istat c'è scritto che le donne sono meno quelle che si separano a quell'età a 60 anni. Invece dopo la media è dopo i 15 anni, insomma. Non so, Paola Calvetti, rimani un attimo, Sandro. Paola, non so se è una sposata buona... da 22. Ho superato lo scoglio. Abbiamo la donna da record, Paola Calvetti, qui. Però quello che ti volevo chiedere è, forse è una buona notizia che ci si separa dopo 15 anni? Perché prima si diceva che la crisi partiva dal settimo anno, adesso dopo 15 anni. Forse quella però è una crisi che si superava, no? Invece quindi dopo i 15 anni evidentemente proprio c'è una stroncatura. Ciao, arrivederci, addio. Ma evidentemente si è andato questi numeri perché hanno fatto delle statistiche, delle medie. Francamente continuo a guardare al matrimonio, ai sentimenti, alle relazioni tra esseri umani, evitando questo tipo di riflessioni. E infatti, Paola, non lo so, e non mi interessa. Ma non è quello, non è che l'amore è solamente da frollocconi, però credo che siano meglio i matrimoni che durano, cioè le storie d'amore e comunque lo stare bene con un'altra persona a qualsiasi età. Devo dire che mi danno un po' fastidio, però perché mi accade, insomma, anche con persone che conosco, così, dei sessantenni che lasciano la moglie per mettersi con ragazze molto più giovani. Questa è una cosa che succede sempre più spesso e ho chiesto anche a un amico, secondo lui, perché succede, ma in modo proprio per spiegarmi un po' come è fatto l'universo uomo, e lui ha dato una spiegazione plausibile anche, cioè in fondo siamo nati tra virgolette biologicamente per procreare e quindi l'invecchiare in un uomo è anche, cioè il mettersi con una ragazza, stare con una ragazza più giovane è proprio un modo di prolungare la giovinezza proprio anche in termini quasi biologici. Paola, però pure per le donne vale questo, al di là che la donna poi non voglia e non possa partorire a 50 anni, ma la voglia di un ragazzo più giovane, fresco, tutto è diverso. No, ma lui lo legava proprio alla possibilità di procreare, di procrearsi, che molti uomini inconsciamente anche. Però insomma a me io amo le storie, insomma, le storie d'amore possono nascere a qualsiasi età, questo voglio dire. Cioè, ecco, le però relazioni... volevo sapere, Paola, scusami, da Sandro, prima di lasciarlo, Sandro ha 22 anni, la tua nuova compagna 23, 32? No, assolutamente. No, su questo sono d'accordo anch'io, perché comunque, a mio avviso, un uomo della mia età ha bisogno di una persona con cui anche scambiare... due parole. Cioè, condividere, certo, condividere la vita... i pensieri, il bene, il male, la malattia e tutte queste cose. Però voglio dire anche questo, secondo me ci sono anche molte ragazze di 45 che vogliono una persona adulta, perché escono da magari da un'esperienza negativa, vogliono una persona adulta che sappia veramente quello che fa, che sappia stare vicino a lei nella maniera giusta, in una maniera matura. Sandro, ti ringrazio intanto, grazie, così abbiamo già toccato i due argomenti che potrebbero essere i principali di conversazione di questa puntata, se volete, quindi la ridiscesa in campo di Berlusconi e il matrimonio che dura 15 anni, perché e per come. Paola Calvetti tra poco ci rivelerà, anzi verso la fine magari, il segreto di un amore longevo. Però prima di sentire Paolo da Milano, Marco da Roma, Enrico da Udine, c'è Margherita Aina ai telefoni bollenti che mi avvisa che abbiamo anche il contatto col satellitare per un altro pianeta, no? Se non sbaglio, sì, mi confermo, molto bene.

perché la gente non si ricorda quando Prodi era presidente dell'IRI, i miliardi di buco che ha lasciato all'IRI, la privatizzazione delle banche che erano IRI fatta con i soldi di Pantalone, e questa l'ha fatta la sinistra. Per cui io, come la signora che vuole cambiare passaporto, non lo faccio perché mi offende Berlusconi, ma è la nostra presenza politica, che non è antipolitica la mia, attenzione. Questi sono diventati dei professionisti della politica e non si riescono a scalzare neanche con i mortai. Paolo, dimmi una cosa, ma tu, secondo te, ha delle chance di vincere Berlusconi? No. Ma Berlusconi può avere le chance di vincere come le può avere Prodi, presidente della Repubblica, non è quello. Perché senti, poi in Italia andiamo ad alternanza, sembrano delle simpatie uterine. Uno passa da una parte all'altra a seconda del momento. Ma siamo una società piramidale, peraltro società senza Stato, in cui c'è una catena di Sant'Antonio sotto che aspetta che quello sopra salti per prendere il suo posto, che veramente non se ne viene a casa. Non è male come metafora. Senti, mi fai venire in mente questo editoriale di Ernesto Galli della Loggia, del Corriere, mi pare, di 2 giorni fa, che titolava Una perfetta impudenza, citando Schopenhauer a proposito dell'Italia. E lui dice, insomma, è una perfetta impudenza appunto perché tutti si ritengono innocenti. Allora dice: debito pubblico cresciuto a livelli vertiginosi, spesa pubblica oggetto di sprechi di ogni tipo e misura, un'amministrazione di inefficienza conclamata, le professioni preda del più turgido spirito corporativo, la lottizzazione dei partiti dominanti dappertutto, un welfare costruito a tutela dei più forti, e insomma fa tutto un elenco, le banche, dice, inefficienti, abituate ad angariare la clientela, un'industria privata spesso variamente foraggiata a fondo perduto dallo Stato, una giustizia di cui i cittadini diffidano, dice, qui tutti si sentono innocenti, in realtà, dice, questo sembra un panorama orfano di padri, ma i padri ci sono stati, i responsabili, cita un po' tutti i partiti e anche i sindacati. Tu, Paola, che ne pensi? Penso che purtroppo ha ragione, nel senso che anche Paolo in fondo, grazie, no? Paolo da Milano, è che ci dimentichiamo, poi chi è più giovane non se lo ricorda proprio, non lo sa. Io credo che si sia acuita questa distanza tra noi e loro, quindi Berlusconi o non Berlusconi, lo stesso Bersani oggi riunisce il Partito Democratico, venendo meno un sacco di, come dire, alle regole del loro stesso statuto. Perché? E voglio dire, perché? Beh, perché lo statuto del Partito Democratico, da loro essi stessi, come dire, vergato, scelto e votato, dice che dopo 3 mandati bisogna, come dire, cambiare mestiere, tornare a casa, non essere politici di professione. Io credo non che non mi sembra che sia così. Non mi sembra che questa sia la strada che vogliono prendere anche per il 2013. Quindi, non per fare il suo discorso tutti colpevoli, tutti uguali, eccetera, però questa distanza abissale, proprio una falesia tra noi e loro, è sempre più evidente. Cioè, tra gente comune e politici. Senti, ma soprattutto anche per la questione della crisi, perché noi, che chiunque di noi si misuri col lavoro, col dover lavorare per guadagnare, si rende conto che invece noi manteniamo tante persone che hanno tante garanzie, troppe garanzie, e quindi capisco che per loro mollare, però credo che di fondo bisogna recuperare un'etica e cambiare la classe la classe politica va rinnovata. Senti, a questo proposito, lo so che è banalissimo, lo dicono tutti, però, lo diciamo tutti tranne loro, è probabile, speriamo. Paola, ma visto che tu sei milanese, no? Milanese. Leggevo sulle pagine milanesi ieri del Corriere, a parte Bersani, per le primarie, no? Per le primarie del PD, Bersani, vabbè, si sa, si presenterà. Beh, giusto, Renzi, il segretario del partito. Certo, Renzi che vuole rottamare a tutti questi e continua, però ieri leggevo che anche Tabacci e Boeri, che sono 2 assessori della giunta Pisapia, hanno intenzione anche loro di candidarsi. Il PDL dice: ecco le prime fughe dalla giunta Pisapia. Non so se è motivo. No, io non credo che siano fughe dalla giunta. Credo però che se tu alle primarie candidi il segretario del partito e basta. Che primarie non sono? Non sono primarie. Già le abbiamo fatte, le uniche primarie che hanno funzionato proprio come primarie sono state, e vere, sono state quelle milanesi, perché Boeri era un candidato, Pisapia era un altro candidato, Pisapia ha vinto e Boeri ha fatto tutta la campagna elettorale con Pisapia, accettando di avere perso, e ha lavorato per poi portare alla vittoria l'attuale sindaco di Milano. Guarda, però si sono scontrati davvero. Ah, sì. Allora, le primarie Bersani le faccia, ovviamente candidandosi, però il dando segretario, spazio anche agli altri. Ma dando spazio agli altri. Ma ti risponde D'Alema, secondo me ci vuol candidarsi, si candidi. No, Massimo D'Alema, secondo me ascoltava, non ci sono più le mezze stagioni, perché vedo un'agenzia adesso di questi istanti, sì, che dice: quando c'è la candidatura di Bersani alla guida del paese, questa non è una scelta individuale, ma collettiva, certamente contenibile, ma chi non la condivide si faccia avanti, ma non spetta a noi indebolirla in partenza. Risposta, quindi lui dice che le primarie sono, indeboliscono il candidato. Allora, non le chiamino primarie, dicano: il Partito Democratico candida l'onorevole Bersani come prossimo premier alle elezioni. Punto. Punto. Marco da Roma, 800 24 0024. Marco. Buonasera Roberto. Buonasera a te Marco. Buonasera. Allora, io premesso non ho mai votato Berlusconi, però stavo facendo due riflessioni, sì, data alla decisione capo Berlusconi. Una che riguarda Berlusconi stesso e l'altra la Santa Anche, che forse farà da tandem. Mio Dio. Innanzitutto, saranno gli elettori che decideranno quello, certo, che è quello, giusto, che sì, ovvio, sì, no? Quindi senza la Santanchè, no, perché la critica è contro il sistema, che dobbiamo scardinare questo sistema. Tanto se non è Berlusconi sarà Beppe Grillo, sì, perché se noi abbiamo la Merkel che prende 9.000 euro al mese, chi? O Barack Obama, Merkel, che ne prende 25.000 euro al mese, sì, 300 all'anno, lordi, siamo fuori, sì, siamo fuori qui. Fuori mercato, sì, però il mercato qua evidentemente, ecco, per funziona. Per quanto riguarda, sì, la Santanchè, ecco, forse che non è il suo nome, Santanchè, perché lei è il nome del primo marito. No, è del primo marito, va bene. Le cose per nome. Se, sì, Berlusconi ha una possibilità di riscattare, per me che non ho mai votato Berlusconi, ma forse stavolta lo voterò, o lui o Grillo, è di chiamare le cose con nome. Perché la Santanchè si usa il cognome del suo marito, il primo marito? Vabbè, ma questo c'entra poco. Nel senso, anch'io sono contraria che le donne usino il cognome, però se lo scelgono, per carità, cioè avranno i loro motivi. Secondo me ognuna deve rimanere col nome e cognome, non è come il cagnolino che lo prendi e cambia nome. Però Roberto, scusa Marco, che c'entra tutto? Che c'entra la Santanchè? Però forse voteresti o Grillo Berlusconi? Cioè, mi pare no, un po' confusionale. Stiamo sempre in una cosa che si dice e non si dice. Siamo chiari. Perché l'errore che ha fatto Berlusconi con Bossi è il figlio, quello che ha fatto col figlio. Cioè, chi sbaglia paga, perché Roma si è fondata così. Se Remo si è messo in mezzo a chi è? Remo si è stato fatto fuori. Ma legge è legge, chiunque sia, se è un parente, un amico. Ci sono un po' di articolazioni, scusa Marco, non riesco a seguirti. Tu voteresti o Berlusconi o Grillo? Che mi sembrano io voterei pure da Lema se cambiamo un sistema. Non esiste un sistema che noi votiamo. Lanciamo la moneta. Euro al mese. Dobbiamo scardinare il sistema. Chiunque lo scardina va bene. Ma Berlusconi potrebbe scardinare il sistema? Se chiama le cose per nome, secondo me sì. Come le chiama? Santanchè? Non si chiama Santanchè, ma in un altro modo? Questo è il nome del suo primo marito. Non si chiama Santanchè. E scardiniamo così. Va bene. Io mi presento col mio nome. Va bene. Grazie, Marco da Roma. Enrico da Udine. Buongiorno a Buongiorno. Tutti. Buongiorno, Enrico. Io ho sentito gli ultimi ascoltatori, molto simpatici. Sì. Ma quello che sento sempre in questo tipo di programmi, di trasmissioni, sono solo delle lamentele. Sono solo delle lamentele, ma non ci sono delle idee costruttive. Daccene una tua, Enrico, così, su due ma piedi. È puerile, sì, non serve a niente. No. Cerchiamo di pulire un po' tutto. Cerchiamo di dimenticare destra, sinistra, centro. Cosa vorrebbe la gente perché l'economia riprendesse? Avrà delle idee, io le ho le idee. Dane due. Allora, due. Se le imprese sono senza soldi perché devono pagare solo le tasse, facile far pagare le tasse. Vendi quanti soldi mancano, fai un conto ragionieristico, metti un po' di tasse qua e un po' là, come sta facendo qualcuno adesso. Monti, vuoi dire? Pagano le tasse, sì, hanno meno potere di acquisto, hanno meno disponibilità e ingessi l'economia. Allora, facciamo una cosa, la mia idea può essere condivisa o meno. Incominciamo a detassare gli utili reinvestiti dalle imprese. Certo. Io devo comprare un impianto da 500.000 euro, 500.000 euro li avrò calcolati in meno sul profitto, pagherò le imposte variabili, l'IVA, con questo faccio riprendere l'economia, faccio lavorare le persone. Burocratizzazione. Con la burocrazia attuale, prima di fare una cosa, uno aspetta mesi, anni, sì, non funziona, bisogna fare le cose più velocemente, come ci insegnano, o comunque come possiamo citare ad esempio molti altri paesi più veloci di noi. Terzo, le banche non danno soldi neanche a chi le ha, le banche speculano in questo momento. Sì. Quarto, i costi della struttura pubblica, abbiamo una struttura pubblica che in un'azienda uno fallisce il giorno dopo, abbiamo non il 10% in più, ma molti di più, basta andare, se la gente aprisce gli occhi, entrasse dentro le regioni, i comuni, le province, potrebbe rendersi conto che c'è della brava gente che lavora, e io stimo e ammiro, ma ci sono altre persone che non fanno niente. Allora questi quattro ingredienti, a mio avviso, servono, potrebbero dare un valido contributo a fare qualcosa di effettivamente utile. Enrico, ti ringrazio. Ti ringrazio, sei stato propositivo. Non so, Paola Calvetti, che ne pensi? Seguito. D'accordo, cioè voglio dire, fate qualcosa, bisogna fare. Come dire, no? Però non è che ci stiamo lamentando, non mi sembrava che gli altri anche ascoltatori si lamentassero. Mi sembra che siamo, come dire, abbastanza impotenti, cioè perché non si supera, è come fare sempre l'elementare, non arrivare mai alle medie, no? Cioè, ma a te molti finché piace? Non si risolve, ma non è questione ti piace o non mi piace, è un premier, tipo di politica che sta facendo. Un premier deve essere funzionale allo Stato, al momento, che serve, soprattutto. Ecco, al momento, ed è un servitore dello Stato. Cioè, qui quello che hanno perso, ha ragione lui, è che è l'etica dello Stato, che è una cosa importantissima, cioè non, è basilare, quindi è vero che le ricette potrebbero esserci, però mi sembra che è la base che deve cambiare, cioè non è che ci si lamenta, diciamo sempre le stesse cose perché non cambiano, semplicemente per questo. 800 24 00 24, poi se riusciamo vorrei leggere qualche commento dalla pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni, tantissimi commenti sulla ridiscesa di Berlusconi in campo, poi vi ringrazio anche per tutto un attestato di solidarietà per un'altra vicenda un po' parodistica, ma poi vediamo dopo se riusciamo a leggere. C'è Roberto da Milano, Aldo da Roma, Enrico lo salutiamo, grazie Enrico, il numero è sempre quello, sì, viabilità. Pochi istanti, avete visto, di nuovo qui c'è sempre Paola Calvetti, opinionista estemporanea di oggi, giornalista e scrittrice, col suo ultimo libro pubblicato da Mondadori, Olivia, una storia di intrecci, una storia dove c'è l'amore comunque sotto, come sottotraccia. E Aldo da Roma, che dici, Aldo? Buonasera. Buonasera. Dunque, il motivo per cui intervengo è che ascolto spesso questo genere di rubriche. Scusa Aldo, è una cosa non molto corretta. Cioè, devi dire, io ascolto spesso Non ci sono più le mezze stagioni. Se dici queste rubriche così, in modo così generico, no? Aldo, tu senti molto spesso? Ascolto la sua rubrica. Molto spesso? Molto. Vabbè, dai, ti tirerò le orecchie, Aldo. Prego. Va bene. Prego. Il discorso, però, ciò che mi preoccupa. Scusa Aldo. Aldo, perdonami, Aldo. Ti devo interrompere perché vedo un'agenzia pazzesca uscita in questo momento, i tedeschi ci danno giù pesante, scusami, è uscita in questo momento, allora, Il Padrino 4, questo è il titolo con cui apre oggi il quotidiano tedesco Die Welt, con una grande foto di Silvio Berlusconi, può esserci un'Italia senza Berlusconi, chiede il giornale in sottotitolo, al momento sì, ma il 75enne vuole tornare al potere e un uomo come lui, che nel resto d'Europa viene chiamato volentieri anche il padrino, ovviamente non lo dice personalmente e lo lascia dire, sì Berlusconi, il candidato premier, eccetera, eccetera. Titola in questo modo, Die Welt, il quotidiano tedesco, Il Padrino 4. Sì. Sembra abbastanza una bordata. Aldo, prego. Questo, cioè, ma è ovvio, se scende Berlusconi, è ovvio che sia così. Cioè, e indubbiamente non è certamente il mio candidato. Io non ho mai votato Berlusconi e onestamente non ho mai votato centrodestra. Se voto, voto centrosinistra, però se voto, perché il problema è che c'è un grosso italiano. Problema, a mio avviso, sul concetto di democrazia in Italia, anche nella sua trasmissione, ciò che ho sentito dire anche dalla sua ospite, cioè le critiche, ad esempio, è giusto fare critiche a ciò che ha detto, per esempio, Letta, però non si può dire si dovrebbe astenere, non è così. Nella democrazia ciascuno ha diritto. No, non astenere dall'esprimersi, no, però magari dire delle robe più. Dalla mia. Il discorso che io, come ripeto, non sono un elettore di Berlusconi, ma se Berlusconi, come dice lui, con questo termine ridicolo, scende in campo di nuovo, vabbè. Io personalmente, come elettore saltuario di centro-sinistra, mi fa piacere perché questo dovrebbe dire che finisce. Vinceremo. Nel senso, ma tu sei sicuro? Però, ma sì, sei proprio ma sicuro? Sì. Non parlo, io non sono per niente sicura invece. Perché credo che. Vabbè, questo è più complesso da spiegare, però io penso che se noi crediamo alla democrazia dobbiamo credere che gli altri abbiano le stesse facoltà nostre di valutare la situazione. E se no, ma io non sto dicendo che siano intelligenti o meno intelligenti, io dico che lo fanno con, certo. Diciamo, con... Roberto, sei stato chiarissimo, voglio chiedere... Però, qual è? Sì. È che questo purtroppo troppo spesso non viene accettato. Cioè, è anche il discorso di anche altre rubriche nelle quali, voglio dire, in Italia quando si dice non c'è informazione, io non capisco come si faccia a dire questo. Informazione c'è tutta quella che vogliamo, se la vogliamo ottenere. Certo. I giornali è pieno di giornali. La stessa televisione non a pagamento, parlo, offre telegiornali di diversa. Quindi possiamo farci un'idea, questa è la conclusione, tirando un po' le fila della questione. È vero. Grazie Roberto, c'è una grande ricchezza, una grande varietà effettivamente di informazione, ma seguite, non ci sono più le mezze stagioni, naturalmente qui su Radio 24. Aldo da Roma, pronto Aldo? Ah no, perdon, Roberto da Milano, Aldo l'ho salutato, è stato un po' di sconfusione. Roberto? Sì, buongiorno, buongiorno. Signora Giordano. Non mi chiamare signora, ti prego Roberto, mi viene un po' di orticaria. Signorina. No, neanche signorina, Roberta. Allora, sì. Di Belt, se non sbaglio, era quello che aveva fatto la copertina col piatto di spaghetti. Sì, la pistola. E quindi a sparate di questo tipo è abituato. Tanto è vero che la strage di Augsburg è capitata in Germania e loro che sono molto attenti non si erano accorti di avere i camorristi in casa. Comunque vabbè, questo è solo un incipit. A proposito della signora che voleva cambiare passaporto, Amalia, sì. Allo stato dell'arte mi risulta che Berlusconi, quando c'era Berlusconi, settembre-ottobre, lo spread era 403,80 giù di lì. Monti siamo quasi a 500, la pressione fiscale è aumentata di 2 punti, ci hanno messo altre tassazioni in più. Mi pare che anche nel caso Minetti, per esempio, sentivo oggi il vostro GR che sparavate a zero sulla Minetti, che è come sparare sulla Croce Rossa. E chi sparava a zero sulla Minetti? Non credo, il GR è abbastanza asettico. La sua collega Pellegatta sparava a zero e ha finito... una carabina. Ha finito il resoconto sulla Minetti omettendo o forse dimenticandosi di dire che la multa che il pubblico ministero ha richiesto è stata annullata dal giudice per la sua assenza in tribunale. Per la sua assenza in tribunale non è stata presa in considerazione perché l'accusa non aveva ritenuto il caso di interrogare la Minetti. Se l'accusa non ritiene il caso di interrogare la Minetti, vuol dire che è assolutamente inconsistente. L'altro giorno abbiamo avuto un processo di Berlusconi dove l'accusa ha rinunciato a ricorrere in Cassazione. Va bene. Quindi Roberto, dimmi solo una cosa, Roberto, siamo proprio gli sgoccioli. Tu voterai Berlusconi nel 2013? No, io voto tutt'altra cosa, però era solo per rendersi conto dello stato dell'arte della situazione. Ci siamo resi conto, Roberto, ti ringrazio, perché adesso abbiamo un appuntamento che non possiamo saltare con la nostra Valeria Della Valle, linguista della Sapienza di Roma. Cara Valeria, alla quale chiederei questo declassamento, vogliamo studiarcelo. Sì, vogliamo spiegarlo velocemente. Certamente. Sì. Beh, intanto naturalmente il declassamento non è una parola nuova, esiste nella lingua italiana dal 1938, dal 1935 esisteva già il verbo declassare, che era stato preso dalla lingua francese. Non c'era ancora lo spread, tuttavia. Da declassare, non c'era ancora lo spread. Ma in realtà il significato originario, quello col quale è nata la parola nella lingua italiana, era un po' diverso, indicava soprattutto il passaggio da una classe sociale superiore a una classe sociale inferiore. Oggi la parola è di grandissima attualità, ne avete parlato durante tutta la trasmissione, e si riferisce naturalmente soprattutto al campo dell'economia, no? Quindi declassamento dell'agenzia di rating Moody's. Per concludere, per un cittadino normale naturalmente il declassamento di Moody's è ancora un po' qualcosa di misterioso, e per assurdo il declassamento, quello di cui parliamo in senso economico, si va a ricongiungere col significato originario della parola, cioè quello che faceva passare molti da un livello sociale superiore a uno inferiore, perché le cose, se vanno male, potrebbero avere questa conseguenza. Bene, grazie Valeria Della Valle. Prego, arrivederci. Grazie, buona chiusura di settimana. Invece vi dirò, chiedo scusa a tutti i facebookiani, hanno scritto veramente tantissimi commenti, io me li sono letti uno per uno. Se voi volete andare a vedere i commenti anche sulla discesa di Berlusconi sulla pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni, dovete cercare Roberto Giordano, Non ci sono più le mezze stagioni. Poi potete riascoltare la trasmissione su Radio 24. Paola Calvetti, il segreto per un amore longevo, visto che tu sei sposata da ben più di 15 anni, col tuo libro Olivia. Ma cosa c'entra? Sì, in pochi secondi, devi dirlo. Il segreto, la curiosità. se devo sintetizzare in una parola. Cioè sei sempre curiosa di tuo marito, diciamo. Sì, sì, curiosa. E poi la stratolleranza, cioè noi, lui viaggia molto, io anche, e quindi è stata debita distanza. In 22 anni diciamo. Abbiamo, come dire, diluito, 22 anni diluite, però funziona. Grazie Paolo Calvetti. Ciao. Provateci anche voi. Da Roberta Giordano, Sereni Orizzonti, a tutti.